amore. Rima impercettibile che sfiora ora, e più non proprio torni nelle mie ore, passate ad assolate spiagge pure, pure te distesa a fianco a me, ora Venere e Sole. Tremano gli dèi al mio capezzale dopo il volo ancestrale. Io Dio fottuto e fatto in danza immortale. Ho scritto pagine per farti sognare. Tremano i denti digrignanti, ascianti, deserti, lutti, amori in tutti. Tremano i denti digrignanti, ascianti, deserti, lutti, amore in tutti. Tremano, tremano loro ora al cospetto dell'aurora. Mia dolce signora, amarti e volarti è ora. Al suono dell'oro che sgorga in sogno dona vero al mistero di me e di te in spiagge assolate. Nella mente dolce morente pensiero immortalmente. Dolce morente pensiero immortalmente. Tremano le lucertole al sole di un corpo fatto per il tuo amore. Rima impercettibile che sfiora ora, e più non proprio torni nelle mie ore.